Avvocato Carbone, qui torno a lei. È ovvio che, come per tutti i prodotti di investimento, anche questi hanno allegato un prospetto informativo che è tutt'altro che semplice da leggere, non è certamente piacevole come un bel romanzo, sono documenti sempre complessi. So che il suggerimento da rivolgere a tutti sarebbe di leggerlo attentamente, però siccome ci fidiamo anche della banca e del consulente che ci suggerisce questo prodotto di investimento, allora io magari le chiedo di aiutarci a fare le domande giuste all'intermediario quando prendiamo un prodotto di questo tipo, perché io capisco che lei ci suggerirà, andatevi a leggere il prospetto, ma magari di dirci quali sono le parti che assolutamente non possiamo farci sfuggire di questo prospetto, perché leggerlo tutto veramente mette un po' il mal di stomaco, non trova? Certo, assolutamente, anche se in realtà, come insomma, ha detto lei, io suggerisco sempre di leggere attentamente il prospetto informativo e soprattutto leggere quella paginetta, paginetta e mezza del prospetto informativo che riguarda i fattori, il capitolo che è titolato Fattori di rischio. Lì noi riusciamo a comprendere come è strutturata l'obbligazione. E conseguentemente possiamo capire se si tratta di un investimento a noi adatto o meno. Poi certo si possono fare tante domande al promotore finanziario, anzi vanno fatte, soprattutto se non comprendiamo fino in fondo il prodotto attraverso il quale vogliamo investire i nostri quattrini e che vanno dal rendimento, dalla garanzia del capitale a scadenza. Perché spesso abbiamo visto che sì, veniva pubblicizzato, veniva detto che a scadenza il capitale era garantito, però a condizione che il soggetto su cui poggiava l'obbligazione strutturata non fallisse.